d'amore divenne fuoco eterno, ma non è mai bruciato. Chi non parla d'amore è cieco, anche se vede più di un falco, non sa cos'è quel vuoto dove non vuol farci un salto. Chi non parla d'amore ha vissuto nel vento senza aver mai volato. Chi non parla d'amore non sa cos'è il tormento, non averlo pregato è un singhiozzo, un lamento. Chi non parla d'amore credi è fortunato, perché questo è il giove che lo avvolge uno scudo. Una terra perduta senza l'ombra di un miraggio. Chi non parla d'amore non sa cos'è il sorriso, perché sconosce il pianto. E se è vero chi ha dato, e se è vero chi ha avuto, chi non l'ha sperperato non sa cosa avrà perduto. Chi non parla d'amore danzato nel vetro, ma non si è mai tagliato. Chi non parla d'amore ha un biglietto soltanto, una fetta di cuore non sa cos'è il disagio, uno sguardo che tiene ferro tutto il respiro. D'amore primo, anche se non sarà premiato, non sarà vero onesto perché non è stato ladro. Chi non parla d'amore brinderà il suo successo senza quel vino rosso.